Amen. Gesù è molto, molto, molto buono. Lo sai, vero? Vogliamo fare un applauso al nostro Dio buonissimissimissimissimo. Gesù è molto, molto, molto buono. Molto, molto, molto buono. Buongiorno, Chiesa. Che bello essere qui oggi, vero? Vogliamo accomodarci. Questo è un evento che noi chiamiamo il Natale come non l'avete mai visto, un Natale come non l'avete mai visto. E abbiamo cominciato a vedere delle cose che non si erano mai viste. Avete mai visto i fuochi di artificio in chiesa? Io ho chiamato il pastore per chiedere: abbiamo l'assicurazione antincendio o c'è qualche problema? Perché abbiamo avuto qualche difficoltà, anche se devo dire sono stata leggermente delusa, mi aspettavo che i fuochi di artificio partissero anche ora. Quindi, per cui stasera Luigi, dov'è Luigi, il direttore del circo? Luigi, voglio i fuochi d'artificio anche quando salgo io. Un Natale come non l'avete mai visto, perché ci sono 20 gradi fuori, che non lo so se è bello o brutto, non lo so, ma la stagione ci impone di metterci il maglioncino di Natale. Quindi la stagione è un Natale che non abbiamo mai visto, perché Nicola e Noemi hanno lo stesso, alzatevi in piedi e vergognatevi, hanno lo stesso maglione. Facciamo un applauso a questa coppia di sposini, sono bellissimi, sei dietro Nicola, hanno il maglione uguale. Questo è un Natale come non l'abbiamo mai visto, per venire a farsi le foto qui. È un Natale come non l'abbiamo mai visto, perché Marco Memola ha cannato la canzone. Vogliamo fare un applauso a Marco Memola, che è partito con un'altra. Marco, giusto per metterti un po' in imbarazzo, ti vuoi alzare in piedi? È lui il batterista che ha sbagliato prima, è lui. Non so, vuoi chiedere perdono pubblicamente? Vuoi, non lo so. Perdono pubblicamente. Lui già è molto timido, ora sei proprio, ti stai sciogliendo. Succede. Marco, dovevi partire, sei partito con la canzone Quale Re, è vero? Di la verità. No, però... neanche un'altra, la canzone tua. Fabio, lo puoi perdonare? Marco, tu chi devi perdonare? Il gruppo Giuseppe è un brano difficile, hai sbagliato proprio. Allora il brano difficile l'hai sbagliato a Natale, cioè diventerà storico questo Natale, sarà scritto negli annali, cioè anche nel video, ci seguono anche in streaming, cioè tutto il mondo sa che lui ha sbagliato il brano di punta di Natale. Facciamogli un altro applauso, sarà ricordato per sempre. Come sappiamo, Gesù rimane buono anche se Marco sbaglia il brano di Natale. Gesù rimane buono se ci sono 20 gradi. Gesù rimane buono se abbiamo il maglioncino in match con il nostro coniuge o no. Gesù rimane buono se stiamo bene, se stiamo male. Gesù rimane buono non solo a Natale, non è come un pandoro, un panettone. Gesù è buono sempre. E non so quanti di voi sono della categoria Natale o della categoria Grinch. Posso vedere le mani di chi è della categoria Grinch? Siate sinceri, io mi sono vestita anche di verde perché voglio manifestare, e io sono proprio della categoria Grinch. Io non amo il Natale, proprio, Non ho capito. Spiego che cos'è il Grinch. Il Grinch è il personaggio che rovina il Natale, che odia il Natale, che non lo vuole festeggiare, perché non lo vuole festeggiare, ed è verde. Infatti mi sono messa la giacca per questo motivo. Difatti, nella storia degli annali della Chiesa non mi hanno fatto mai predicare a Natale. E oggi invece i nostri pastori, simpaticamente anche questa volta, mi hanno chiesto: però lo sanno che io sono il Grinch? Anche se da qualche anno, non so, io non ho mai amato il Natale, è sempre molto malinconico, i miei genitori lavoravano sempre, quindi eravamo sempre stanchi a Natale. Da qualche, no, quanti, ora che ho spiegato chi è il Grinch, quanti di voi odiano il Natale? Posso vedere le mani? Sinceri, ragazzi, vi perdoniamo. Oh, beh, grazie, grazie Donata, grazie a chi... Tutte le altre sono le signore che hanno fatto tutti i dolci di Natale. Però in fondo anche voi odiate il Natale, perché fate ingrassare gli altri per cui avete fatto i dolci. Quindi un po' Grinch siete anche voi. Io sempre ho sempre detto: ma il Natale no, troppo, troppe cose, troppe... Poi pian piano mio marito ha cominciato, no, a celebrare il vero significato, ad insegnarmi il vero significato del Natale, che non sono le luci, l'albero. è il vero significato del Natale, te lo voglio dire con una parola, il vero significato del Natale è l'incontro. Il Natale è un incontro. Il Natale è un incontro speciale. In fondo a Natale ci sono degli incontri in chiesa speciali, gli incontri a scuola, le recite, ci sono le feste delle nostre sedi lavorative, c'è sempre qualcosa di speciale, no? Cammini per le strade del paese, c'è il presepe vivente, piuttosto che il vin brûlé, forse l'unica cosa che mi piace del Natale, o la cioccolata calda. Il Natale è un incontro. E da un po' di anni il Natale sta diventando proprio questo. Il Natale è diventato Xmas, che e ora ve lo spiego perché. Man mano nella storia, ormai tutti festeggiano Natale, anche le persone che non credono in Cristo Gesù. E si è cercato di rendere il Natale quanto più politicamente corretto possibile. A volte togliamo anche Gesù bambino dalla mangiatoia o non mettiamo nient'altro, perché tanto il Natale lo capiamo tutti. E quindi abbiamo cominciato a vedere sugli scaffali dei negozi le scritte Xmas, abbiamo tolto Christ, abbiamo tolto Cristo dal Natale, abbiamo tolto la parola Cristo. Natale in inglese è Christmas ed è appunto il nome di Gesù ed è quello che noi vogliamo celebrare. Il Natale è un incontro. Incontriamo chi? Incontriamo la nostra famiglia stretta, no? Ci stiamo organizzando per la vigilia, 25, 26. Incontriamo i nostri familiari alla larga, c'è sempre la zia che ti dice ma quando ti sposi, ma come sei ingrassata, ma quanti figli hai, vero? Ma eri più bella l'anno scorso, c'è sempre la zia, diciamo che a Natale vorresti non incontrarla e le incontrerai per forza. E poi il Natale chi incontri? Incontri gli amici intimi, quelli con cui ti scambi regali, no? Che lo sai che hai comprato qualcosa e loro hanno comprato qualcosa per te. Però il Natale è anche l'incontro degli amici che non vedi da una vita. Io ultimamente ho incontrato un amico di scuola superiore e non è sempre bello, no? Perché ti ricorda il tempo che passa, che hai preso 40 chili in più, che hai perso 40 capelli. È sempre un po' un incontro. È un incontro delle nostre tredicesime sul conto bancario, vero? È un incontro dei regali, è un incontro di cibo. Mangiamo sempre tanto a Natale. Il Natale è stabilito per avere un incontro. Ve lo faccio leggere. In Luca 2 c'è stato un SMS che un angelo ha lasciato ad un'intera umanità per cominciare a celebrare il primo vero Natale, il primo vero incontro. Ve lo voglio leggere così come l'angelo lo ha detto. L'angelo disse loro: non abbiate paura, perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché è oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo. Che è Cristo, il Salvatore, il Signore, e lo riconoscerete in questo modo. Troverete un bambino in fasce, in una mangiatoia, come si è manifestato il nostro potente Dio. Un piccolo bambino indifeso, in fasce, in una mangiatoia. E guarda ora, e ad un tratto si unì all'angelo. Vedete come è stato celebrato il primo Natale? Si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui si posa il suo favore. Questo è quello che è accaduto nel primo Natale. Quando la Bibbia parla di moltitudini, sono moltitudini, non sono centinaia, sono centinaia di migliaia. Immaginate com'è, entrate con me in questo primo Natale. Milioni di angeli adoravano e lodavano Dio dicendo: gloria nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui si posa il suo favore. A quest'angelo che ha annunciato il primo vero Natale è stato contornato di una meraviglia assurda che stava accadendo nei cieli. Questo è come si è celebrato il primo Natale nei cieli. E Dio non ha smesso di celebrare lì. Lui ha fatto scendere questa gloria dal cielo ed ha incontrato la terra attraverso Cristo Gesù. Ecco perché il Natale è un incontro. Il Natale è un incontro tra il cielo, la magnificenza di Dio Altissimo e la terra. Un bimbo, noi. Questo è un incontro straordinario. Il Natale è l'incontro tra il cielo e la terra. Il Natale esprime la piena volontà di Dio di salvare l'umanità, di incontrarci e di incontrarci per sempre. Questo è il Natale. Questo è il Natale. La nascita di Gesù è segnata come un appuntamento unico sull'agenda di Dio nella sua volontà di incontrare gli esseri umani. E Dio ha preso suo figlio e lo ha portato sulla terra in forma di bimbo in fasce, e poi è cresciuto come uomo, e poi sappiamo la vita di Gesù. Ma il Natale è l'incontro di quello che accade nel cielo e quello che sta accadendo sulla terra. Il Natale è l'appuntamento che Dio ha segnato sulla sua agenda per incontrare me e te, e per incontrarci in una maniera unica. Il Natale non ha a che fare con chi noi incontriamo. Il Natale ha a che fare con chi vuole incontrare me, con chi vuole incontrare te. Il Natale è per ricordarci che Dio vuole incontrare me e te. Amen? Ti piace? Il Natale è un dono chiamato Gesù. E Gesù è tutte queste cose. Avete un bigliettino sulla vostra sedia e io prego che vi sia capitato proprio quello di cui avete bisogno, di quella rivelazione di cui avete bisogno. Non l'avevate visto, ma c'è. Gesù è il Salvatore, Gesù è il Principe di Pace, Gesù è il Meraviglioso Consigliere, Gesù è il Buon Pastore, Gesù è l'Acqua Viva, Gesù è la Luce del Mondo, Gesù è l'Agnello di Dio, Gesù è il Re dei Re, l'Alfa e l'Omega, Emanuele, Redentore, Pane di Vita, Verità, Pietra Angolare. Questi, quei ticket, ora continuo con la lista, sono i bigliettini che nella rete dei bambini hanno dato ad ogni bambino l'anno scorso per celebrare il calendario dell'Avvento. Noi li abbiamo salvati e stiamo ancora facendo, no, ora il calendario dell'Avvento. E prima di aprire la bustina e prendere quello che c'è nella bustina, abbiamo rimesso queste etichette. E ogni volta che apriamo una bustina, i nostri bambini lo sanno, mi stanno seguendo online, leggiamo che cosa c'è scritto su questo bigliettino. E quando siamo arrivati alla pietra angolare, anche quest'anno con David e Abram ci siamo chiesti che cos'è la pietra angolare. Allora chi prende la bustina fa la domanda agli altri della famiglia, e Abram l'aveva presa e dice: mamma, per te che cos'è la pietra angolare? E ho detto: no, facciamo rispondere prima a David. E David ha detto: se c'è quella non cade niente. Ed è così, se la nostra vita è messa su Gesù non cade niente. Ancora, Lui è il Signore, Lui è la via, Lui è il Figlio di Dio, Lui è il Messia, Lui è la vita, Lui è la parola, Lui è il giusto. Questo è il nostro Dio. Gesù ci sta incontrando e Gesù vuole incontrarci con queste vesti. Lui è tutte queste cose per noi. Vogliamo cantare insieme e proprio adorare Dio con queste caratteristiche che Lui ha. Abbiamo una canzone che si chiama Quale Re e lo canteremo insieme. Quindi vi chiedo di alzarvi, e se hai quel bigliettino, ringrazia Dio, adoralo su quel bigliettino che ti è capitato, e poi vedremo ancora un piccolo concetto insieme. Capiamo perché non possiamo avere un Xmas, ma dobbiamo mettere Cristo al centro del Natale. Vediamo un po', questo è il vero Natale. Non è Xmas, è Cristo Gesù che incontra l'umanità, che incontra la storia, che incontra le epoche, le cambia. È Cristo Gesù che lascia il cielo e arriva, lascia quella grandiosa immensità, lascia l'adorazione, lascia la perfezione e arriva per incontrare me e te, per incontrare la nostra imperfezione, per incontrare il nostro bisogno, per incontrare il nostro peccato. Per questo il Natale è grandioso, perché Cristo Gesù incontra questo bisogno e non ha detto di no. Cristo Gesù non si è rifiutato, Cristo Gesù ha guardato il bisogno mio e tuo di essere salvato. Abbiamo letto questa settimana in Geremia: salvami e sarò salvo, guariscimi e sarò guarito. Gesù non è venuto per mettere una toppa al nostro bisogno. Se io ti chiedessi ora, quanti di noi hanno dei bisogni per cui pregare? Penso che ognuno di noi avrebbe una lista enorme di bisogni per cui pregare. Se poi ti facessi la domanda, togli i bisogni superficiali, allora la nostra lista diminuirebbe. Se ti dicessi, togli i bisogni inutili, e allora lì ancora il numero forse scalerebbe. Se ti dicessi, lascia solo un bisogno. Chiesa, amico, amica, Gesù non è venuto per farci vincere la slot machine, per guarirci e basta. Cristo Gesù è venuto guardando al nostro bisogno principale, il nostro vero bisogno, che è il bisogno di essere salvati dalla morte, di essere perdonati dai nostri peccati e di darci la vita eterna. Questo è il Natale, non è il regalo sotto l'albero che magari usiamo per un anno intero e poi ce lo dimentichiamo. Cristo Gesù è venuto sulla terra per regalarci la vita eterna. 1 Corinzi 15 dice: se speriamo solo per questa vita, noi siamo i più miserabili degli esseri umani. Ecco che noi non possiamo pensare al Natale come vediamo quello che mi serve oggi. Gesù è venuto per la tua eternità. Gesù è venuto per colmare il tuo vero bisogno, forse quello che non hai messo nell'elenco, però il bisogno più importante, forse quello che non riusciamo a percepire, ma che lo Spirito Santo comincia a mettere nel nostro cuore come una fame, è scientificamente provato che abbiamo un buco a forma di Gesù nel nostro cuore, ed è questo il bisogno che Gesù può colmare. Per questo non possiamo accontentarci di Xmas, ma dobbiamo far entrare la croce, dobbiamo accettare questa rivelazione di Cristo sulla croce, che ha preso ogni nostro peccato, ogni nostra malattia, ogni nostra maledizione, l'ha attaccata a quel legno ed è risorto dandoci la vita eterna. Questo è un vero buon Natale, questo è un Natale che non abbiamo mai visto. E allora, se qualcuno ti ha invitato oggi qui, forse sei per la prima volta, forse per la prima volta stai ascoltando un messaggio così, senza peli sulla lingua, sul Natale, io voglio dirti questo: sull'agenda di Gesù era fissato un appuntamento con te, perché Lui si facesse conoscere in un modo che non hai ancora conosciuto. Quando parliamo con i miei figli di Gesù, qualcuno dice: ma i miei amici lo conoscono Gesù, però non lo vivono nel cuore. E lasciatemi dire che questa è la realtà di quasi tutta l'umanità. Tutti conoscono Gesù, Gesù è famoso, ma viverlo come Signore, viverlo come Salvatore, viverlo non come il bambino in fasce nella mangiatoia, ma come il Salvatore, la pietra angolare, il Re dei Re, questo è il Natale che vogliamo regalarti oggi. Quindi voglio chiedervi di alzarvi in piedi, tutti quanti, di chiudere gli occhi, e io voglio pregare per il nostro bisogno principale, perché quando quel bisogno è soddisfatto, il resto è una benedizione che viene a catena. Però se non abbiamo la salvezza, se non abbiamo la certezza di vivere per l'eternità con Lui, allora siamo miseri, siamo poveri e andiamo avanti con un brutto bisogno, con un brutto buco nel cuore, e lo vogliamo colmare, non noi, ma Cristo Gesù oggi. Vogliamo chiudere gli occhi? Io voglio chiedere a tutte le persone in piena tranquillità, chi dice: io ho bisogno che Gesù colmi questo bisogno, posso vedere la tua mano alzata? Amen. Amen. Che velocità, sì, è così, perché so che Dio ha preparato il tuo cuore, e quello che senti è lo Spirito Santo, che è Dio, che ti sta dicendo, sta parlando di te, sì, sto parlando di te, stava parlando di me qualcuno da questo palco qualche anno fa, quando io ho detto: ho proprio bisogno, ho proprio questo buco. e l'ho lasciato entrare e lui ha riempito tutto. Lui ha riempito tutto. La mia vita non è bellissima, la mia vita è piena, ed è piena di una gioia che non mi può togliere nessuno, quella gioia che l'angelo ha annunciato per SMS a tutta l'umanità, una grande gioia. Tieni la tua mano alzata, voglio pregare con te. Se intanto si è aggiunto qualcun altro, so che hai fatto la lista dei tuoi bisogni, come la lista dei desideri per Babbo Natale, non nella letterina, so che stai togliendo i bisogni ora, che li stai selezionando, questo non serve, questo non serve, questo non serve, so che nella tua lista è rimasta la tua salvezza. Allora vogliamo pregare ora insieme per questo. Lasciate che preghi io per tutti quanti e poi voglio chiedere ad ognuno, intanto pensa a quello che dirò, tu devi pregare per te. Questo dice la Bibbia. Signore, tu conosci i cuori di ognuno di noi qui e tu sai il nostro vero bisogno. Nella tua agenda c'era un appuntamento con ognuno dei tuoi figli che oggi si sta ricongiungendo a te. Ti prego di spalancare quella porta e diventare tu il Signore Salvatore, come il regalo più bello ed inaspettato. Se sei convinto, vuoi confessare ora con la tua bocca, pienamente convinto di quello che dirò, apri la tua bocca e ripeti con me, credendo queste parole. Chiesa, facciamolo tutti insieme. Signore Gesù, da oggi voglio chiamarti così e ti chiedo di perdonare i miei peccati, di venire ad abitare nel mio vuoto e di riempirlo tutto con la tua grazia. Grazie per il perdono che hai preparato per me. Nel tuo nome Gesù. Amen. Amen. Amen. Come ti senti? Io sono quella che chiede come stai. Come ti senti ora? Ora è Natale. Che dite? Sara, ci fai rivedere il video? Togliamolo questo Xmas. Questo è il Natale. Ti posso chiedere un favore personale? Se hai queste scritte, queste cose, buttale. Metti una bella scritta Christmas, ok? Ci fa schifo questa cosa che hanno tolto il Natale. È vero che sono il Grinch, però il Natale è vero ed è Cristo Gesù. Amen. Per tutti coloro che oggi hanno fatto questa preghiera per la prima volta, per tutti coloro che oggi hanno chiesto a Gesù di riempire quel buco, noi vogliamo rimanere con te, vogliamo spiegarti cosa è successo nella nostra vita. Prima di tutto hai fatto bene a fare questa scelta, perché oggi ti regaliamo cioccolata calda e castagne. Non l'ho detto prima, se no tutti quanti facevate questa scelta, invece no, le persone giuste. Quindi, che se no ci mandate in fallimento, già dobbiamo pagare l'assicurazione per l'incendio, quindi. Ma se hai fatto questa scelta, noi abbiamo la voglia di volerti regalare qualcosa. E quindi ci saranno delle persone che verranno da te con un regalo, oltre che con la cioccolata calda e le castagne. Però rimaniamo ancora insieme. Sento ancora di pregare per chi magari ha già fatto questa scelta di riempimento. Magari il tuo bisogno è stato già colmato, però si è spostato qualcosa, No, non parlo dei bisogni. Non sto parlando della casa più grande, della seconda macchina, no, sto parlando di cose che magari stai chiedendo a Dio e lo stai facendo con fede, per gioia, per guarigione, per liberazione. Voglio ricordarti quello che c'è scritto in Geremia: guariscimi e sarò guarito. Per coloro, per chi di noi sta vivendo nell'ansia, nella malattia, nella difficoltà, confessa queste parole: Signore, guariscimi e sarò guarito. Guariscimi e sarò guarito. Queste parole hanno una potenza lenitiva, è un medicinale soprannaturale nella nostra mente, nel nostro corpo, nelle nostre emozioni. Quanti di noi hanno bisogno di guarigione nelle emozioni? Posso vedere la tua mano? Non c'è la cioccolata calda per te, però c'è la preghiera per te, ok? Sì? Vogliamo pregare tutti insieme. Se hai questo bisogno di ricevere guarigione nelle tue emozioni, alza le tue mani e chiedi a Dio questa guarigione. Gesù, tutti noi siamo davanti a te, forse con un anno complesso, forse con dei buchi qua e là, e ti prego, Signore Gesù, metti l'olio della tua guarigione. Confesso queste parole per ognuno di noi qui: guariscimi e sarò guarito per ogni problema nelle emozioni, per ogni malattia nel corpo. Signore, voglio pregare per chi ci ascolta, per chi è qui. Gesù, guariscici e saremo guariti nel tuo nome. Gesù, prego questo. Amen, amen. Voglio dirti solo un'altra cosa: se hai confessato queste parole con una convinzione che si chiama fede, qualcosa di straordinario avviene. Non è una liturgia, non è un fatto a memoria. Se ci hai creduto, riceverai un bellissimo regalo sotto l'albero, molto più bello di quello mai ricevuto fino ad ora. Amen. Vogliamo adorare ancora Gesù insieme. Amen.